tema che di questi tempi è rimbalzato spesso sui microfoni, dai microfoni di Radio Popolare, è quello della differenza fra destra e sinistra. Al di là delle distinzioni puramente linguistiche un poco tendenziose, per cui sinistro può significare qualcosa di temibile, di pericoloso, di disastroso, in contrapposizione all'abilità e affidabilità di ciò che è destro, rimane il problema di individuare dei contenuti politici che superino o distinguano due opzioni che sono presentate in contrapposizione tra loro e che pur tuttavia hanno dei punti in comune almeno nella forma. Destra e sinistra sono infatti concordi nell'individuare nello Stato la massima forma di organizzazione del Paese. Ambedue dichiarano di voler realizzare la massima libertà e di voler promuovere tutte le possibili forme di solidarietà fra i cittadini, che peraltro ambedue dichiarano uguali almeno rispetto alla legge. Schematizzando, si potrebbe anche pensare che i valori individuati dalla Rivoluzione francese, quei liberté, égalité, fraternité, siano ormai patrimonio comune di tutto lo schieramento politico delle tendenze più diverse. Ma evidentemente non è così. Nei fatti, nell'individuazione dei problemi e nelle proposte per la loro soluzione, le differenze fra destra e sinistra sono spesso abissali, nonostante l'adesione ai medesimi valori guida. Il punto di divergenza, in effetti, è altrove, e più precisamente nel modo di intendere esseri umani e ruoli sociali. Perché mentre la sinistra riferisce i valori agli esseri umani e considera i ruoli sociali come intercambiabili se non del tutto accidentali, la destra tende ad identificare le persone con il loro ruolo. L'esempio estremo è certamente l'opzione monarchica, cioè di una persona che incarna il ruolo di garante proprietario dello Stato, destituibile, allontanabile, ma del tutto inseparabile dal suo ruolo, perché per quanto esautorato ed allontanato resta pur sempre il re in esilio. Nella stessa logica possiamo trovare i vari Pinochet, Mussolini, Chiang Kai-shek e quanti altri vi verranno in mente della stessa risma, ma il problema non è quello di compilare elenchi, bensì quello di capire che identificando gli uomini coi ruoli si fa cadere il presupposto di uguaglianza, uguaglianza fra le persone in quanto tali. Si disconosce la dignità umana semplicemente negandola attraverso l'attribuzione di un ruolo. Così il signor X diventa il presidente, il capo ufficio, l'elettricista o il barbone, e in quanto tale viene trattato, attribuendo unità ai concetti di essere umano e ruolo. E non basta ancora, perché questa attribuzione mette anche in discussione gli altri due valori, e a seconda dei casi la fratellanza viene trasformata in paternalismo e comunque in rapporto tra maggiore e minore, e la stessa libertà viene poi intesa come libertà di chi è identificato in un ruolo qualsivoglia potere, a scapito di quanti, perduto perfino il nome, diventano operai, impiegati, bottegai, barboni o puttane. Se ci pensate bene, tutto il sistema economico si fonda sui ruoli. Produttore e consumatore, che di per sé sono soltanto due aspetti della vita di noi tutti, ognuno produce ed ognuno consuma quanto gli ritiene gli occorra per vivere. Ora, se ci limitiamo a queste due categorie, l'uguaglianza è virtualmente possibile, e con essa la sinistra. Se però identifichiamo nel ruolo di produttore quello che un tempo si chiamava capitalista, o comunque lo mettiamo a far da tramite fra i due ruoli suddetti, ogni possibilità di pari dignità fra gli uomini viene a mancare, e si ha la destra. Destra più o meno feroce, più o meno intenzionata a smetterla con quello spreco di denaro rappresentato dalle elezioni, ma pur sempre destra. Per finire, questo mio intervento non esaurisce certo il dibattito in corso, e forse non basterebbe un libro, ma per il momento vi dovrete accontentare di questo.